Adesso questo però non significa che non dobbiamo lasciare spazio alla dottoressa De Pascale, la quale parlerà sulla Police Romantic, non so esattamente ancora che tipo di titolo, né taglio poi sarà venuto nella sua relazione, ma credo che questo intervento sia importante perché dovrebbe, attraverso esso dovremmo poter forse ritrovare anche altre fonti, altri materiali, no? Da cui in diversi settori, letterario, scientifico-politico, giuridico, storico e così via, si è pescato. Ecco, quindi io mi auguro che anche questo ripasso che facciamo nella prospettiva della De Pascale, che è secondo me al momento la più aggiornata studiosa italiana di queste cose, ci possa servire per ecco, mescolare gli ingredienti che in questi primi giorni siamo venuti accumulando. Quindi per favore, se possiamo passare di qui. Il tempo, scusami, è quello che è. Stringere al massimo. Abbiamo avuto anche la televisione tedesca che ci ha costretto a perdere 10 minuti, ma insomma tutto fa brodo, come si dice. Prego. Tieni conto che c'è un'urgenza gastrica a un certo punto che ci imporrà di bloccare. Sì, però non mi pongo adesso il problema di dove tagliare. Tu vai tranquilla, magari il tempo che vuoi. Mi tagliate a metà e vabbè. Dunque, il tema della mia comunicazione è costituito da alcune riflessioni circa la recezione del mito medievale nel pensiero romantico in terra tedesca. E credo si debbano fare subito due osservazioni preliminari, ma essenziali per entrare bene nell'argomento. La prima è che, mentre nel romanticismo, quale ampissima corrente di pensiero che ha percorso tutto il primo Ottocento europeo, l'adesione, per dir così, al modello medievale non costituisce in realtà una caratteristica così essenziale, nei territori germanici essa assume viceversa una enorme rilevanza, una rilevanza costitutiva, credo che si possa dire, al di là di rare eccezioni. La seconda osservazione è che, per altro verso, in terra tedesca la recezione di un mito medievale, di un modello medievale, copre un arco più vasto ancora. Non resta cioè questa ripresa un patrimonio esclusivo del pensiero romantico, ma va ben al di là di esso. Basti citare come esempio canonico Herde, ma anche Justus Moser o Johannes von Müller. Basti pensare alla prontezza con la quale in Germania, in avanzata età romantica, venne recepito e accolto il pensiero dei tradizionalisti francesi, che romantici non erano, ma che a loro volta avevano fatto ampio ricorso a questo modello. L'intervento di poco fa aveva fatto riferimento all'Amenet, io immagino che volesse riferirsi all'Amenet del saggio sull'indifferenza, cioè proprio a questo tradizionalismo che a piene mani venne riutilizzato in Germania, che ebbe una grossa influenza nel tardo romanticismo tedesco, sul tardo romanticismo tedesco. Basti pensare infine, e questo è un caso ancora più significativo, anche se su questo non mi posso fermare, basti pensare alla larga presenza di motivi medievali in Friedrich Julius Stahl, un pensatore sicuramente ormai del tutto oltre l'età romantica. Ecco, quello che ho voluto fin qui sottolineare è stato il peso davvero molto forte che il concetto stesso di Medioevo ha all'interno del pensiero romantico tedesco, si può dire all'interno del pensiero tedesco dell'Ottocento, mettendo questo aggettivo romantico per il momento fra parentesi, e in particolare nella pubblicistica politica, che è quella che io adesso tengo in particolare presente. Volutamente ho detto concetto di Medioevo, non sapevo decidermi fra il termine mito e il termine modello, allora facendo il filosofo ho preferito usare questa espressione. Ecco, in realtà è questo riferimento concettuale che con il passare degli anni, dei decenni, assume un peso, una consistenza, un significato sempre maggiori. È questo riferimento concettuale ciò che veramente conta. Ed è ovvio che sia così. Nessuno avrebbe potuto fattivamente pensare di organizzare un passo all'indietro della lunghezza di alcuni secoli. Nessuno poteva auspicare un tale impossibile ritorno al passato. Semplicemente tale concetto, variamente sostenuto appunto da immagini e miti ispirati a questa età della storia, diventa una sorta di simbolo, di immagine a sua volta, di parola d'ordine, una sorta insomma di oggetto chiave che al meglio sintetizza tutta una serie di convinzioni, di passioni, di aspirazioni politiche condivise da un certo numero di intellettuali, pensatori, filosofi e anche politici più o meno di professione. E si capisce allora anche perché questa età della storia venga, tra l'altro, rievocata in maniera così nebulosa, perché i suoi contorni risultino spesso così indefiniti, sfumati, e la stessa sua collocazione cronologica sia sovente così incerta. O se non vogliamo dare un quadro a tinte troppo fosche, diciamo almeno che il fuoco del problema non risiedeva, perlomeno nel primo romanticismo tedesco, nell'esigenza di scientificità, diciamo così, della ricostruzione storica. Molto più essenziale era l'utilizzo di un modello, di un'immagine appunto, finalizzato a determinati scopi. Mi corre d'obbligo un'aggiunta, cioè le righe che io ho letto adesso le avevo scritte prima di venire a Trento, dopodiché ho avuto modo di rendermi conto nelle relazioni dei giorni scorsi e poi anche nel dibattito che ne ha seguito di tutto lo spessore del problema che probabilmente io non avevo colto, anzi che senz'altro non avevo colto in tutta la sua profondità. A parziale giustificazione potrei addurre l'attenzione peculiare che io ho dedicato al primo Ottocento. Però forse c'è una spiegazione più sostanziale alla quale ho riflettuto proprio in questi giorni e sulla cui validità aspetterei anche un giudizio in questa che è la sede più adatta. Ecco, perché si può parlare, se se ne può parlare, più di suggestioni esercitate da un modello che non di risultati ottenuti nel campo della ricerca storica attraverso un metodo scientifico? Ribadisco che nel pormi questa domanda circoscrivo l'indagine al primo romanticismo, anche perché poi la risposta è più semplice, perché per esempio ha ben altri risultati, servendosi già di fonti storiografiche, pervenne il Federico Schlegel maturo, e qui ricordo soltanto di passata i suoi studi su Carlo V. Ecco, se ci possiamo e forse ci dobbiamo limitare a parlare di suggestione di modelli per il primo romanticismo tedesco, il motivo è essenzialmente il seguente, credo. Siamo ancora e soltanto nell'ambito della filosofia della storia. Per addurre subito l'esempio di Novalis, al quale dedicherò più avanti qualche riflessione, si noterà che il suo, più che una ricostruzione storica, il suo è un profilo, uno schema di filosofia della storia, entro il quale vengono collocati una serie di concetti, il concetto di medioevo, di riforma protestante, di rivoluzione, di monarchia, di repubblicanesimo. Una filosofia della storia che consapevolmente si allinea, per in buona parte contrapporvisi, all'illustre tradizione, la tradizione francese dei Condorcet e seguaci e prosecutori, tradizione proseguita poi nella Geschichtsphilosophie della Germania tardo settecentesca. Questo discorso potrebbe venire allargato dalla scienza storica alla scienza tout court, perché nel momento in cui ho parlato della presenza di questo schema di filosofia della storia in Novalis, avrei dovuto insieme non tacere della forte sensibilità per la storia che ciò nonostante Novalis già dimostra. Ecco, uno stesso duplice, per non usare il solito termine ambivalente, ma uno stesso duplice atteggiamento Novalis lo tiene nei confronti della scienza in generale. Ecco, da una parte si potrebbe ricordare l'atteggiamento provocatoriamente antimoderno che egli assume proprio nei confronti della scienza, tanto che il suo discorso sembra a tratti una riproposizione della condanna della civilizzazione corruttrice di costumi, e parallelamente però, dialetticamente, si sarebbe tentati di dire, la sua celebrazione della scienza moderna, per i risultati che essa ha conseguito e soprattutto per quelli che in futuro, in un utopico futuro, essa potrà conseguire. Risultati per il momento rozzi, risultati ancora incompleti, quelli conseguiti dall'età contemporanea, ma suscettibili di un infinito perfezionamento, se solo potranno venire affiancati da un altro elemento, un elemento naturale, extrascientifico, ma appunto perciò non artificioso. E qui rimando solo di passata a tutta la polemica contro l'artificiosità, contro l'artificio che avrebbe caratterizzato l'età illuministica, l'elemento cioè divino. Quindi non è contro la scienza, contro la cultura in generale che si pronuncia non ovalis, ma contro una cultura e una scienza che hanno dimenticato il divino. Mi rendo conto che per affermazioni del genere dovrebbero essere documentate, c'era anche qualche citazione, la riservo per la parte da filoscritta degli atti. Ecco, comunque tutto questo serviva poi per mettere il fuoco, mettere l'accento sull'utilizzo da parte del primo romanticismo e poi, come vedremo in particolare, di Novalis, di un modello finalizzato a determinati scopi, il modello medievale. Ecco, a questo punto occorre chiedersi che tipo di scopi. È ormai chiaro che questi scopi non si identificavano in un mero ritorno al passato, ma dovrebbe anche essere accertato ormai, per quanto la letteratura critica non sempre faccia chiarezza completa su questo punto, che neppure la mera controrivoluzione era il fine perseguito dal romanticismo politico tedesco. E dicendo controrivoluzione penso al senso più proprio del termine, come reazione, controazione nei confronti della rivoluzione, nel nostro caso nei confronti dell'89, i suoi esiti, il suo sostrato ideologico e più in generale l'intero contesto culturale nel quale essa si collocava. Il ricorso al modello medievale aveva trovato sì una propria adeguata collocazione nell'armamentario concettuale approntato da quelle numerose, anche se per il momento poco consistenti, correnti anti-illuministiche che sotterraneamente circolavano nella cultura della seconda metà avanzata del secolo XVIII. Io vedo molto forte questo elemento di continuità, già prima quindi della Grande Rivoluzione. Ma esso raggiunge il momento del massimo splendore allorché diviene la leva principale sulla quale fa forza il motivo antidispotico. Non sono più soltanto la Francia e la rivoluzione a far paura, non è nemmeno solo Napoleone, più di tutti fa paura la Germania, il dispotismo, per il quale ho messo delle virgolette, che vi regna, cioè ciò che i romantici intendono per dispotismo, e cioè quell'organizzazione statuale che è il risultato ultimo di quel modo di concepire lo Stato e i rapporti politici inaugurato essenzialmente da Federico II di Prussia e perpetuato dai suoi estimatori e seguaci. A controprova di ciò sta, fra l'altro, la circostanza per cui, anche dopo la scomparsa del pericolo Napoleone, la lotta contro lo Stato presente nel tardo romanticismo non accenna a venir meno. Chiarisco che qui uso il termine di antidispotismo per estrema sintesi. In realtà dietro questa espressione si cela la lotta contro un'intera concezione dello Stato, come dicevo un momento fa, quella concezione dello Stato inaugurata da Suarez nelle sue lezioni al principe, quella concezione che passando attraverso l'Allgemeines Landrecht prussiano sfocia nelle riforme del primo quindicennio dell'Ottocento in Prussia. C'è tutto questo quadro che io traccio veramente con due parole, che però credo debba essere lo sfondo, il punto di riferimento della nostra indagine. Ecco, con questo sintetizzo motivo antidispotico, pur non celando, non celandomi il problema, anche l'altro problema, cioè del significato più diretto che ha questo termine antidispotismo e che ci servirà subito dopo, ci servirà adesso proprio per la figura, per esaminare la figura di Novalis. Questo motivo antidispotico, nel senso che si era precisato, prende corpo nel corso dell'ampio arco cronologico lungo il quale il romanticismo tedesco si distende. Credo sia utile prestare una grande attenzione allo svolgimento cronologico, perché ciò fornisce la possibilità sia di cogliere il filo logico che collega le molteplici articolazioni interne di questo movimento, sia però anche di individuare le differenti componenti di un movimento tanto composito. Un esempio per tutti: l'incompatibilità o la difficile compatibilità all'interno di uno stesso orizzonte conservatore, fra sostenitori della politica meterniciana come Adam Müller o il Federico Schlegel maturo e gli eredi di quel movimento del risveglio, Franz von Baader o Zaccaria Werner, ma anche per alcuni aspetti lo stesso Novalis, che mai persero di vista la nozione di chiesa primitiva o chiesa invisibile. È questo che propongo per rapidissimi cenni, un quadro molto lontano da quell'indifferenziato occasionalismo tracciato da Carl Schmitt, dal quale mi separa inoltre la convinzione che se è vero che gli esponenti del romanticismo non brillarono quanto a effettivi risultati politici ottenuti, è altrettanto vero che gran parte di essi conferirono al proprio pensiero un'immediata valenza politica e ritennero, anzi, dotate di una possibile efficacia pratica le proprie teorizzazioni e proposte. Quindi anche sul concetto di occasionalismo, penso, si possa avanzare qualche dubbio. Motivo antidispotico, dunque, che con il passare dei decenni diventerà base per un nuovo e assai più rigido concetto di autorità. Ma i primi anni del romanticismo sono naturalmente quelli nei quali in modo più marcato viene in evidenza questo motivo antidispotico, il quale si manifesta qui, per così dire, come allo stato puro. E sono anche gli anni, del resto, nei quali già bene si comprende come tale motivo significhi essenzialmente condanna dello stato presente. C'è ancora entusiasmo per la rivoluzione, però in quanto di per sé fatto eversivo, più che non per i suoi specifici contenuti politici, anzi, ben presto, quasi subito, dichiaratamente condannati, anche da Novalis. Questo si vede bene, appunto, in Novalis. E del resto, a proposito della condanna del tempo presente, dello stato presente, non va dimenticato che Novalis fu entusiasta discepolo di Fichte, anche se non troppo rispettoso degli insegnamenti del maestro. Quello stesso Fichte che nei primi anni dell'Ottocento pronuncerà una durissima requisitoria appunto contro lo stato presente, mi riferisco ai Grundzüge des Gegenwärtigen Zeitalters. Ecco, a me pare molto complicato districarsi con agilità negli scritti di Novalis, non so se ci sono riuscita. Sono scritti pieni di dissonanze, frutto di un pensiero anch'esso pieno di dissonanze. Ma non fu del resto anche questa una peculiarità del romanticismo? E poi, come si sa, i primordi sono tali anche perché non conoscono ancora la possibilità di codificarsi in correnti. Ecco, io questo credo che valga in particolare per Novalis. Impossibilità dunque di inserire a pieno titolo il pensiero di Novalis in una delle molteplici articolazioni del movimento romantico, anzi questo pensiero ci appare come una fucina atta a contenere gli elementi più disparati, nella quale convivono, vicino a momenti di mera polemica antilluministica ormai sedimentati e dunque allineati lungo uno schema già dotato di una sua interna sistematicità, intuizioni più originali, molte delle quali destinate a prendere corpo e a vivere a lungo nel pensiero dei successori. E anzi destinate a sopravvivere in pensieri diversi, in autori che sceglieranno strade tra loro reciprocamente ben poco conciliabili. Ecco allora che l'interessamento per Novalis, compreso il Novalis politico, trova una sua ragion d'essere anche nel fatto che qui compare allo stato nascente, potremmo dire, un complesso di suggestioni e spunti che spetterà all'età successiva di codificare in uno o più sistemi. Per addurre esempi concreti, prenderò come punto di riferimento il breve scritto dal titolo di Christenheit oder Europa, che inoltre mi sembra fra i più adatti a documentare l'interesse di Novalis per il Medioevo. In primo luogo, per una esemplificazione di un chiarissimo e già sistematizzato superamento della civiltà dei lumi, basterà ripercorrere quella pagina nella quale Novalis sintetizza con il termine di filosofia definita il risultato della mentalità moderna, quello che stamani si sentiva a proposito di Balbe dell'Ottocento italiano, tutto quanto è contrario all'antico. Quindi filosofia si definisce per essere tutto quanto è contrario all'antico. Qui è indispensabile aprire una parentesi, per quanto breve, perlomeno avvertire che non dobbiamo farci troppo condizionare da questo conclamato privilegiamento del termine antico. Nella precoce querel fra antichi e moderni, Novalis e il primissimo romanticismo politico occupano uno spazio assai originale, dove il termine antico trascolora nel suo opposto, intendendo con quest'ultimo l'età nuova, quell'età che si ritiene fecondata e creata dal richiamo, dal ricordo, dalla riproposizione proprio dell'antico. È il mito, insomma, che, come sarà più chiaro in seguito, si trasforma in utopia. Devo ricordare l'ampissimo e frequentissimo ricorso del termine giovane o del termine nuovo riferito all'attività dei romantici. Devo ricordare il concetto di romanzo in Augusto Schlegel come elemento della modernità, come il moderno, come il giovanile, con tutta la carica di significati che questo contiene. Chiusa la parentesi, forse fin troppo veloce. Passiamo invece a domandarci quali erano le peculiarità di quello antico che la filosofia aveva voluto cancellare. Erano in primo luogo la religione e poi tutti gli oggetti dell'entusiasmo. Devo qui richiamare l'attenzione su questo termine entusiasmo, perché è un concetto chiave, un termine chiave per una larga parte della produzione filosofica settecento e ottocentesca. Comunque, oggetti dell'entusiasmo, e cioè fantasia, sentimento, moralità, amore per l'arte, per l'avvenire, per il passato. Come risultato di questa catena di distruzioni, si apriva dinanzi agli occhi dello spettatore un panorama desolato, non soltanto incredulità pratica, l'ateismo appunto, ma soprattutto atonia. In questo terreno di desolazione un solo frutto, quello dell'egoismo. Non occorre sottolineare la contrapposizione fra egoismo, tipico di un mondo che aveva da tempo perduto, ma Novalis preferirebbe dire smarrito, Dio, e la nozione di amore, una nozione fortemente presente in Novalis e che soprattutto avrà un peso teorico rilevantissimo fino alla tarda età romantica. E si noti che egoismo, come del resto in un luogo Novalis dichiara esplicitamente, è anche egoismo economico. Ed è qui che per un verso si situa un germe di quella fervidissima polemica anticapitalistica che caratterizzò tanta parte del pensiero politico romantico, mentre per un altro verso, sempre qui, viene attestata anche una interconnessione, forse si può dire una compresenza, fra polemica antiborghese da una parte e parziale accettazione dell'elemento borghese. È un po' lo stesso atteggiamento che abbiamo visto nei confronti della scienza. Una presa d'atto delle trasformazioni sociali avvenute, affiancate dal tentativo di in qualche modo arginarne gli aspetti più negativi, più potenzialmente distruttori. Ma più degna di attenzione mi sembra la comparsa qui di questo termine atonia, che è sì di evidente e diretta derivazione herderiana, ma che a Novalis, nello specifico, servirà come base di appoggio per motivare una sua originalissima intuizione. Servirà cioè per enunciare la necessità di un elemento altro, diverso, di un elemento più alto, di un elemento divino, che intervenga a regolare i rapporti politici. Ci troviamo qui... Ancora 5 minuti. Non c'è problema. Ci troviamo qui alle prime origini di quella teorizzazione dell'indispensabile rapporto fra religione e politica che credo si debba ritenere un principio fondante, al di là delle sue diversissime articolazioni, del romanticismo politico in Germania. Fermiamoci solo un attimo per mettere a fuoco quanto segue. Vicino a un ampio retaggio che abbiamo visto proveniente dalla cultura antirazionalistica, per dirla in breve, tardo settecentesca, già qui sono emersi concetti gravidi di futuro, principalmente il concetto di amore e il binomio, adesso diventato indissolubile, di religione e politica. L'inserimento del divino entro l'umano e la subordinazione dell'umano al divino costituisce l'impalcatura che sorregge la proposta pacifista di Novalis. L'ipotesi di pace perpetua, abbiamo Kant come primo riferimento esterno, come più immediato riferimento esterno, questa proposta di pace perpetua insostenibile, come invece Kant voleva, in termini esclusivamente politici, insostenibile ove venga progettata lasciandone l'iniziativa e la gestione a forze laiche, a potenze comunque contendenti, che non saranno mai capaci di trovare un equilibrio, si trasforma in un universalismo religioso ove è il papato a svolgere il ruolo di garante della pace. Questo punto è fondamentale. Garante della pace, cioè garante dell'equilibrio fra gli stati europei, in una sorta di confederazione che riproduce l'antica unità dell'Europa cristiana, ma garante anche, paradossalmente, questo è ancora più importante, dell'equilibrio fra le diverse confessioni religiose. Sono opportune almeno due considerazioni in proposito, non senza aver preliminarmente fatto notare come quel termine di utopia, che è stato di frequente utilizzato per connotare queste pagine novalisiane, trovi già qui una sua giustificazione, sebbene a livello più banale del suo significato. Data la situazione oggettiva dell'Europa sul finire del Settecento, utopica era l'idea della pace, altrettanto quanto quella di un papato forte. Ma soprattutto, ciò premesso, assolutamente singolare è da una parte questa ripresa del pacifismo in età in cui gli sguardi erano ormai rivolti al problema nazionale. Potendosi poi dilungare, si potrebbe dimostrare come questa proposta pacifista non fosse poi così lontana dagli intenti nazionalistici dei contemporanei, però per questo ci vorrebbe un momentino di tempo in più. Ecco, ma intanto quello che credo sia più importante far sottolineare è proprio questo. Assolutamente singolare, dicevo, è da una parte questa ripresa del pacifismo come del suo correlato il cosmopolitismo, del quale cominciava già a parlare ovviamente molto meno, fuori dell'ambito che storicamente gli è più proprio, quell'ambito che per brevità abbiamo sintetizzato con il termine di razionalistico. Ecco, fuori da questo ambito troviamo questo pacifismo cosmopolitismo. Dall'altra parte, non meno singolare, è l'allineamento di questi concetti di pacifismo e cosmopolitismo vicino a quello di papato, con i suoi corollari, sui quali non ci si può dilungare, ma che è assai significativo vengano rievocati da Novalis. Primo, la nozione di chiesa come Zunft, come corporazione, una nozione che avrà un grossissimo peso nel romanticismo politico successivo. Secondo, il richiamo pieno di rispetto ai gesuiti, anche questo sarà significativo, ma solo in una direzione, rispetto ai gesuiti e all'opera di promozione dell'ortodossia cattolica svolta dalla Compagnia di Gesù. Ecco, più tardi, in tanta parte del romanticismo posteriore, la rievocazione dell'antica unità imperiale si salderà con la riproposizione di un cattolicesimo rigidamente ortodosso, in nome dell'unità germanica promossa, sorretta e politicamente guidata dalla cattolicissima Austria. Qui si ha invece quest'altro orizzonte di pensiero. Non così in Novalis, nel quale la nostalgia per l'antico impero immediatamente si traduce nella profezia dell'avvento di uno Stato degli Stati, nell'utopia di una nuova Europa in connessione con una Chiesa giovane, e questo mi dà possibilità di riallacciarmi con l'accenno fatto poco prima sull'importanza di questo termine giovane. Si traduce dunque nell'utopia dell'avvento di una nuova età dell'oro, un'Europa dunque tutta ancora da costruire. Si è parlato ieri a lungo di età dell'oro, non occorre che mi dilunghi, però devo almeno ricordare come questi Glanz e Zeit siano citati, cioè subito dopo questa citazione si ricordino invece gli oscurantisti reazionari che erano d'altra parte un nemico meritato dal Settecento. Quindi c'è questa specie di equiparazione fra i lumi settecenteschi e l'oscurantismo del